Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Dove siete quando mi ascoltate per radio? In che modo mi sentite? Mandate una foto che racconti come ascoltate la radio, in che maniera ascoltate la radio, mandatela a melog@radio24.it e noi la proietteremo in una notte favolosa in cui io deciderò che la radio è morta. Sabato 9 aprile a Milano, all'Unicredit Pavilion, dove parlerò dei miei 33 anni di radio, dalle 19.30 alle 20.30. Siete tutti invitati. Come si fa a venire sabato sera ad assistere a uno degli eventi epocali della storia della radio italiana? Voi direte, quanto te la tiri, Nicoletti? Beh, in fondo sono 33 anni che sto a questo microfono. Chi è esperto in cabala e in gioco del lotto direbbe gli anni di Cristo. Beh, per me non sono stati proprio quelli. Non c'è stata passione. Anche se poi la passione si sente, guardate il paradosso, è lo slogan della radio dove ho passato felicemente e con grande senso di leggerezza gli ultimi miei anni, 10 anni di vita professionale. Beh, visto che c'è questo International Festival della Radio che si terrà appunto a Milano in questi giorni di aprile, dall'8 al 10 aprile, il 9 aprile mi hanno dato quella che è la location più fantastica e più prestigiosa, che è l'Unicredit Pavilion, che è un posto fantastico, bellissimo. Quei posti in cui uno dice vengo qui poi posso anche tranquillamente morire. È in piazza Gaeulenti a Milano e lì vorrò che vengano le persone che mi ascoltano. Come sono venute a centinaia con le barbe in mano, questa volta non venire con in mano una foto che devono cominciare a mandare da adesso. Ho davanti esattamente la casella di posta melog@radio24.it e vedo via via che arrivano le vostre foto. Ne sono già arrivate molte perché esiste un gruppo Facebook, il titolo è La radio è morta, sì, perché il mio reading sarà intitolato La radio è morta. Sono convinto che la radio è morta, fortunatamente è morta, e vi dirò perché dopo la prima pausa pubblicitaria. Ma vi ripeto, se voi mi mandate una foto, vi fate un selfie, è semplicissimo, fatela anche adesso, in questo momento mi state ascoltando, fatemi un selfie in cui si vede voi e si vede come state ascoltando la radio. E questa sarà la prova, la dimostrazione di un importantissimo sondaggio che stiamo cercando di fare per avere un dato scientifico certissimo. Di vedere come ci si ascolta per radio. Ancora c'è chi pensa che la gente ascolti per radio con il vecchio antico apparecchio radiofonico, quel gigantone appoggiato in salotto dove con lo smalto per le unghie la massaia segna la frequenza della radio, lei preferita, e da lì inamovibile, nessuno la tocca. Non credo sia esattamente così. Dai primi messaggi che ho avuto, li potete vedere già pubblicati tra poco nel sito di Radio 24, li potete vedere già a tempo reale sul nostro gruppo Facebook che stiamo mettendo assieme per radunare le persone. L'abbiamo fatto in maniera molto veloce, molto estemporanea, non ci vuole grande preparazione per chiamare a raccolta il popolo della radio, soprattutto il popolo che a me segue da 33 anni, guardate che sono tanti, 33 anni, io 33 anni fa, era ottobre dell'83, per la prima volta, casualmente, per una storia che vi racconterò tra poco, mi ero fatto fare una finta raccomandazione da uno zio arcivescovo che non ho mai avuto, per poter accedere alla gloria di fare il programmista Rai. Ci è capitato per puro caso, non dovevo essere lì. Quelle cose che succedono per caso, accompagni una persona, entri dentro la RAI, tu provinciale perugino, per spocchia, per vanagloria, per prendere per il culo il mondo perché ti senti che il mondo è ai tuoi piedi, quella è la tipica supponenza del provinciale. Millantai chissà quale esperienza, e millantai soprattutto questo zio arcivescovo. Mi telefonarono dopo una settimana e mi chiesero le credenziali e me la scrissi da solo la lettera del mio illustrissimo e benamato nipote, me la scrissi, presi un nome di un arcivescovo, mi sembra che era quello di Bergamo, non mi ricordo bene, e la mandai alla RAI. Dopo pochi giorni mi chiamarono e mi offrirono il primo contratto di 9 mesi, guadagnavo il doppio di quello che guadagnava mio padre, una bella avventura. 800 24 00 24, a tra... Melog. Cronache meridiane. La GBR non va a benzina. Ne potete ascoltare quanta ne volete. Tanta musica gratis per farvi compagnia mentre guidate la vostra auto. Basta avere la radio sintonizzata su 102.5. GBR. Questi erano gli Yardbirds. Ora abbiamo una telefonata in diretta. Pronto, come ti chiami? Mario. Ciao Mario, come stai? Come sto? Sto male. È una carica molto negativa oggi, Cari amici ascoltatori, vogliamo ricordare che disponiamo di 20 minuti per rispondere a questo gioco. È la GPR 102.500 MHz, modulazione di frequenza. Questa era la radio negli anni 70, un periodo in cui non ascoltavo radio, facevo altre cose, ero uno scavezzacollo, nemmeno sapevo che avrei lavorato nella radio. Fu un caso, totalmente un caso, la mia entrata nel mondo della radio. Mi trovai che fisiologicamente, geneticamente, quello dovevo fare. La prima volta mi mandarono subito a fare un servizio, i colleghi Rai, anziani già da dentro, tutti mandati da vari parrocchi, chi era Cellino, chi viene mandato dal partito, chi veniva dalla facoltà di Aso Rosa, c'erano naturalmente una varia composizione. Ero il figlio di nessuno, però avevo la lettera dell'arcivescovo e nessuno aveva il coraggio di toccarmi. Mi mandarono subito a fare il servizio più scabroso. Il primo giorno, mai visto un microfono in mano, mai vista una cuffia, manco sapevo che era la radio. Dico, avevo fatto un curriculum finto inventandomi chissà quali esperienze. Sì, ho cominciato con una truffa, lo dico, lo ammetto, fa parte della mia storia, l'ho sempre detto, anzi è scritto anche nella mia biografia su Wikipedia, quindi figurate se mi vergogno di questo. Mi mandarono con una radio mobile subito a fare una diretta ai parenti dei carcerati davanti al carcere di Rebibbia. Pensate quanta voglia questi avevano di parlare alla radio, e invece la fece. Ero lì, c'erano tutte le signore, i signori con i pacchetti, con le torte, con i cibi, con le cose. Andai lì e feci questa diretta. Tornai, stranamente mi guardavano tutti come si guarda un alieno. Come ha fatto a fare una diretta con i parenti dei carcerati davanti a carcere di Rebibbia? Normalmente ti prendono a sassate, tu vai lì a chiedergli qualcosa perché non vogliono che si rompa le scatole, e ce la feci. 800 24 00 24. Mi telefona adesso il marketing di Radio 24, dice: dato l'entusiasmo, visto che già sono arrivati 20 messaggi in pochi minuti con le foto della radio che io adesso commenterò, mette a disposizione 10 radio vintage, l'ho visto, sono favolose, bellissime, da dare ai 10 ascoltatori che maggiormente si distingueranno nella sera del 9 aprile alle 19.30 a Piazza Gaulenti a Milano nel raccontare il loro ascolto radiofonico. E io queste 10 radio, ancora di più, ci metto sopra, le firmerò con il pennarello indelebile dedicandole personalmente alla persona a cui le donerò. Cosa volete di più? Voi dovete mandare semplicemente la foto di voi che ascoltate la radio, come ha fatto in questo momento Matteo. Accendo la foto di Matteo. Matteo, si vedono soltanto degli alberi. Ecco Matteo. Matteo lo vedo, ha degli occhiali, mi ascolta con la cuffietta davanti alla fermata di una metropolitana. Questa è la dimostrazione che la radio è morta. Mi chiama Lino. Lino, guardo la foto di Lino, lo sto facendo a tempo reale. Lino è dentro una specie di camion, ha un giubbottino da Umarell senza maniche, ha la cintura di sicurezza e mi ascolta attraverso l'autoradio del suo camioncino, del suo furgoncino. Mi chiama Paolo. Paolo mi sta ascoltando dall'iPad, mentre sta lavorando, fa V con la dita, Vittoria, ha un pacchetto di sigarette vicino, non fumare, anche un amaro, amaro asiago, beve amaro asiago, ascolta la radio sull'iPad e lavora. Bravo Mario. 800 24 00 24, mandate la vostra foto a melog@radio24.it. Le foto che ho appena elencato saranno proiettate nel maxi schermo davanti a una folla di migliaia di persone al Unicredit Pavilion, e io racconterò la radio. Perché la radio è morta? La radio è morta esattamente perché, come vedete, nessuno più rappresentarla oggettivamente con un oggetto, con qualcosa di concreto. Cos'è la radio? Tre foto descritto, tre cose diverse e nulla a che fare con quello che la memoria descrittiva definisce radio. Cos'è la radio? La radio, fate radio su un motore di ricerca di Google, vedrete apparecchi radiofonici, soprattutto apparecchi radiofonici vintage, perché la radio, essendo morta, è rappresentata con una foto d'epoca, con qualcosa che non appartiene più alla contemporaneità. Non è più radio quella, ma è rimasta come la crisalide. Quando muore il bruco ed esce la farfalla, rimane la crisalide. Oggi nei marchi delle maggiori radio italiane, o di molte radio italiane, comunque c'è qualcosa che ricorda la vecchia radio, dei vecchi microfoni vintage come quelli dell'Eyer e delle vecchie radio di Bachelite, molto belle, molto romantiche. Abbiamo creato delle icone del passato, attingiamo alla nostra memoria visiva per rappresentare ciò che non esiste più. Perché? Perché la radio è morta. 800 24 00 24, chiamate, che piacerebbe anche sentire dalla vostra viva voce, visto che facciamo la radio, non è che stiamo facendo fotografia, quelle che sono appunto le vostre impressioni e la maniera in cui ascoltate la radio. Non vedo telefonata a questo momento, quindi andiamo avanti. Pensate che quando io avevo 10 anni andavo a scuola e c'era un negozio di radio, e per venderli aveva messo fuori una radio che era come una parte di quest'armadio, perché al tirare su c'era il grammofono, poi sotto come un cassettino c'era la radio. E quando passavo lì davanti c'era sempre la musica, no? O qualcuno che cantava. E io dicevo, che crudeltà. Pensa, tengono chiuso là dentro, può darsi un nano e lo fanno cantare. Avevo 10 anni. Questa è una signora che pensava, una signora un po' âgée, che dentro la radio ci fosse un nanetto che parlava e cantava. Guardate che non è molto peregrino questa sua descrizione dei primi ascolti radiofonici. Io pensavo ci fosse l'uccellino della radio dentro la radio. L'uccellino della radio era un segnale identificativo, non so se adesso lo riescono a trovare, ve lo faremo sentire, ma è qualcosa che appartiene alla descrizione più vetusta della radio. Io ho lavorato in Rai 20 anni, felicemente, abbastanza bene, poi mi hanno cacciato. Però in questi 20 anni ho fatto molta radio e mi ricordo tutte le volte che si ricordava la radio, si ricordava sempre la vecchia radio, la radio con l'uccellino della radio, la radio con le trasmissioni di Arbore Boncompagni, la radio con le interviste impossibili, bellissimo. Però fa parte comunque della rassegna delle vecchie glorie. Perché? Perché la radio oggi è morta. Emiliano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. Vediamo se tu sei d'accordo con me perché la radio è morta. Io ti dico perché per me è morta, ma prima dimmi perché per te è morta. Allora guarda, io confermo questa tua teoria e pratica, perché io faccio radio anch'io da più o meno da 20 anni. Radio anch'io era una trasmissione della Rai, la concorrente sì. Di 3131, la faceva Gianni Bisiak. Sì, no, però nel senso io proprio faccio radio anch'io, nel senso che... Sì, ho capito. Sì, no, era la battuta. No, io mi occupo di... Io faccio un programma di musica rock e heavy metal in una radio locale. Sì. E ho iniziato i primi anni sempre nelle radio locali, quindi nelle radio del paese, della comunità, e tuttora trasmetto lì. Che oggi non ha molto più senso di radio locale, oggi la radio locale la senti ovunque. Allora, negli anni 70 e 80, radio locale sentiva soltanto nel raggio dell'emissione radiofonica. Oggi la tua radio la può sentire anche un giapponese. Ovunque. È chiaro. Ma è vero che è morta. È morta perché oggi la radio, specialmente ai miei livelli, la radio oggi si ascolta il giorno dopo sul podcast. Perché è risorta? La risposta è morta perché è risorta. Oggi la radio è morta nel suo cadavere concreto, nell'oggetto. È risorta ovunque. Vedi, la tua radio... È una radio morta e risorta. Il fatto che tu non abbia più bisogno di avere un'antenna, come era negli anni 70, delle antenne che si comperavano usate, che si usavano al di là della legge, che sentivano da condominio a condominio e non più là. La tua radio la sentono ovunque, tu basta la che sei bravo. Ovunque. E soprattutto la scaricano dal telefonino, dal PC, perché io vedo che i miei ascoltatori, è difficile che mi seguano in diretta, mi ascoltano sempre il giorno dopo oppure una settimana dopo dal programma. Ecco. Beh, questo non è una caratteristica tipica delle anime benedette, perché scusami, una persona concretamente si può spostare soltanto nel raggio delle sue possibilità fisiche, quindi la radio, finché era un oggetto definibile, c'era la radio che si sentiva laddove arrivava l'antenna della radio. Essendo morta, essendo risorta come una sorta di puro spirito, essendo ovunque, la radio si sente ovunque, ma ha superato ogni limite spazio-temporale. Perché è vecchia la televisione? Perché ancora noi il televisore lo identifichiamo in un oggetto, ancora per poco, ancora per poco. Perché adesso, ancora quando comincerà poco, sì, le batoste sì. del canone, la gente sempre meno vorrà avere televisori per casa, dirà io lo proietto, lo vedo con l'ologramma, me lo metto negli occhialetti, certo. Via dicendo. Bocca al lupo Emiliano, t'abbraccio. Grazie. Daniele, buongiorno. Sì, io Nicoletti, io siccome sto in macchina, sono una persona anziana, un vecchio mobiliere di 76 anni. Dove ascolta la radio? Dove mi piace tanto la radio tua. Fa il mobiliere, lei fa il mobiliere? Sì, sono un mobiliere da 52 anni. Ha mai costruito una bara, una curiosità? Sentitemi. No, una curiosità, mai costruito una bara? Mi domando questo. Ditemi, volevi interpellare qualcosa? Sì, se ha mai costruito una bara, essendo lei mobiliere. Una curiosità. Io sto avanti al mobilificio, sono le figlie che sono arredatrici. Okay, e allora io guardo il mio mobilificio perché l'ho creato nel 63. Sono un vecchio mobiliere. E dove l'ascolta la radio? Dove l'ascolta la radio? Sempre in macchina, io sto sempre nella macchina, solo così. Autoradio, questo volevo sapere. Tutti i giorni ti sento. Bravo, gli manterrà una vita molto lunga. La domenica quando fai il treno che va, mi piace quella tradizione. È una fatica, pensi, io tutte le domeniche sul treno. Quelle avventure, perché lei è una persona intelligentissima, c'ha un principio di spirito di iniziative che iniziatico. Pochi ce l'hanno. Va bene, in bocca al lupo mobiliere, si diverta. La radio ha il vantaggio sostituibile, puoi ascoltarla senza guardare e fare contemporaneamente altre cose. Questa è la frase più banale che tutti dicono. Perché è bella la radio? Perché ti permette di fare tante altre cose. Poi, caro Nicoletti, ti ricordo ancora Golem, Cammellino a memoria, eri già fantastico. Vabbè, adesso parlano di me, non voglio che si parli di me, ma si parli della radio. Allora, Daniela, buongiorno. Daniela, da dove ci ascolta? Come ci ascolta? Attraverso quale oggetto ci ascolta? Dunque, sono in macchina, sto guidando, ma ho il Bluetooth, quindi tutto a posto. Io volevo dire che la radio per me non è morta, anzi è risuscitata per me 20 anni fa. Sì, ma per scusi, ha mai visto una persona che risuscita senza morire? Se è risuscitata vuol dire che è morta. Era morta per me, perché non la sentivo, non la seguivo più. Poi ho cominciato a viaggiare in macchina perché sono andata a guidare un po' fuori Roma e quindi è stato piacevolissimo. Tutte le mattine in ufficio sentivo Prima Pagina, eccetera. Infatti mi sono sempre chiesta perché la mattina un canale Rai non trasmettesse le favole, perché sarebbe stato piacevolissimo per mio figlio. Ecco l'uccello, sente l'uccellino della radio, Daniela? Si sente elettrizzata e trapassata l'uccellino della radio, lo sente bello? Sì, bellissimo. E adesso pure mi fa tanta compagnia la mattina, ascolto sempre e proprio mi consente di fare tante cose. Quando proprio mi interessa, allora vado con l'auricolare e col telefonino. Allora Daniela, lei ha detto una cosa importante. Perché la radio, finché era viva, finché era un oggetto, inchiodava la massaia. Questa è l'ora del soffritto, lo dico spesso, ma penso ben poche persone che mi ascoltano stanno soffriggendo la cipolla o l'aglio. Ecco, ben poche massaie probabilmente stanno a casa, ma normalmente la radio era la compagnia. Mi dicevano, io ho una radio in ogni stanza della casa, quindi quando faccio le pulizie vado di stanza in stanza. O però c'era, se no, la filodiffusione, questa fantastica invenzione che attraverso il telefono si ascoltava la radio per casa. Lei invece, che è una donna liberata, professionista, che lavora, va in macchina e non c'ho più bisogno dell'oggetto. Ecco, mi arriva un'altra, ecco, bellissimo. Fiorenzo dal suo orto ha una radiolina, c'ha una zappa sulle spalle, è andato a zappare l'orto. Perfetto ascolto da Umarell. 800 24 0024, chiamate da dove ascoltate la nostra radio. A tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te, vi presenta Melog, cronache meridiane. In quei giorni a casa nostra la radio era continuamente accesa. Mia madre, per esempio, non si perdeva mai il suo programma preferito, Colazione con Irene Roger. Buongiorno, caro. Passami il succo d'arancia, ti prego. Eccolo. A che notevole prima siamo intervenuti ieri sera, vero? Oh, sì, non è stato divino? C'erano proprio tutti, da Rogers e Hart a Colport. Sì, caro. E che dire delle incredibili toilette? Incredibili, caro. E che dire delle incredibili... C'erano due mondi completamente diversi. Mentre mia madre faceva i piatti a Rockaway, Irene e Roger consumavano il loro raffinato breakfast in onda a Manhattan, nella loro elegante casa di città, chiacchierando amabilmente di persone e luoghi che noi potevamo solo sognare. Questo è il film che più ho amato di Woody Allen, tra i pochissimi, diciamo, soprattutto quelli della prima generazione, Radio Days, un film che andammo a vedere, guardavamo, riguardavamo, non avevamo ancora il videoregistratore a casa, quindi dovevamo impararlo a memoria, e naturalmente raccontava la radio della sua fanciullezza, che era una radio degli anni 50, 40 e 50, qualcosa del genere, mi sembra, ancora collocata in una sorta di universo indeciso, impreciso, in cui abbiamo sempre collocato la radio, qualcosa che appartiene comunque a un'epoca che è probabilmente ammantata più di una costruzione nostalgica che di realtà. Era la radio era l'epoca delle radio in bachelite, coloratissime, meravigliose, sembrano dei giocattoli, e c'erano i grandi eroi della radio che ancora non erano stati appannati comunque dalle star televisive che li faranno uccidere. Secondo me la radio non è stata uccisa dalle star televisive, è stata uccisa dalla sua gloriosa voglia di cavalcare la contemporaneità, di cavalcare il futuro. Quando io cominciai a metà degli anni 90 a trasmettere in streaming la mia trasmissione, che era Golem, ma la radio sembrava una cosa che assolutamente non esisteva. Veniva a vedermi da tutte le redazioni radio: come? La radio si sente dentro il computer? Sembra impossibile, ma che c'entra? Il computer serve per scrivere, come si fa ad ascoltare la radio dentro un computer? Beh, noi siamo passati anche per quello. Leggo e descrivo qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ricordo, mandando a melg@radio24.it la foto che vi immortala nel momento in cui state ascoltando ascoltando la radio, potrete venire, l'ingresso è gratuito, comunque venite comunque, nessuno vi caccerà via e c'è tanto spazio. A Milano il 9 aprile alle 19.30 a Piazza Gaeulenti all'Unicredit Pavilion, dove io parlerò di radio dicendo e spiegando perché la radio è morta, e avrò a disposizione 10 fantastiche radio vintage che io, sulle quali apporrò con pennarello indelebile la mia firma e la dedica alle 10 persone che più mi avranno soddisfatto nella loro rappresentazione dell'ascolto della radio che è morta. Allora mi scrive, mi manda le foto, vi leggo, vi descrivo qualche foto. Antonio, che ha una cuffietta e sta ascoltandola con la cuffietta, un libraio di Vigevano che l'ascolta con una radio classica però con delle casse in mezzo ai libri, felice lui, sta aspettando i clienti che vengono a comprare i libri e ci ascolta alla radio. Giovanna, immersa fra i faldoni nel suo ufficio, tiene gli occhiali in bocca e ascolta la radio forse di nascosto dal suo computer. Poi c'è un imbianchino, Antonio in una stanza metafisica completamente bianca, la sta imbiancando, ha la tuta da imbianchino, non c'è nessun mobile, ha per terra una vecchia una radiolina a pile di quelle che si vendono dai cinesi, però ci ascolta con quella radiolina, immagino con una grande eco nella stanza vuota. Poi c'è un paio di persone che ci ascoltano con il casco in moto, con la cuffietta del casco. Lorenzo ha una addirittura fa una panoramica, una foto enorme, bellissima, che mostra il suo studio dove c'è una radio di quelle anni 70, anche lì con una cassettina aggiuntiva per sentirla meglio. Uno studio dove lavora è un artigiano, un artista, non capisco bene. Un'ascoltatrice non ha messo il nome, dovete mettere il vostro nome, la vostra email per raggiungervi, chiamarvi, comunicarvi quanto vi vogliamo bene. Ad onta di quello che ho detto, mostra lei con una cipolla in mano nell'ora del soffritto, però ascolta la radio non nella maniera tradizionale, ma con le cuffiette, probabilmente con il suo smartphone. Giulio l'ascolta l'autoradio, Giulio l'autoradio. Mimmo, anche Mimmo la ascolta nella Mimmo divertente, Mimmo Numarel c'ha una radio, una specie di dispensa, non so cosa faccia, ha dei vasi con dentro delle erbe secche o delle confetture, non so se è un erborista o Numarel che c'ha lì la sua dispensa con i prodotti del suo orto che sta preparando il cibo, non so bene. Antonio, buongiorno. Buongiorno, non sono d'accordo per quanto riguarda di dire che la radio è morta. È oggettivo che sia morta. Sì. Me la descrivo, se è viva mi descriva com'è fatta, come è costruita. Allora, la radio viva, secondo me, è solamente, è cambiato il modo di ascoltare la radio. Descriva l'oggetto radio, visto che è viva, come fosse la persona fisica di un essere vivente, me la descriva, com'è la radio? Beh, la radio viva, io la impersono nelle voci che ascolto. Ah, perfetto, è come i morti, come i fantasmi, la pura essenza, no, la voce. No, i morti non parlano. Come no? Il medium serve apposta a far parlare i morti. È un medium la radio. La radio fa parlare. Anche la TV, se vogliamo, è morta. Però il televisore, forse... il televisore esiste. Esiste la radio, si è modificato l'ascolto della radio. Antonio. Se non c'è più l'oggetto, non c'è più il corpo fisico, quindi è risorta in pura essenza. Non è cambiato il corpo fisico. E dov'è il corpo? E mi rispica, dov'è il corpo fisico? Solo per radio. L'hanno inserita in altri componenti. Tant'è vero, se noi immaginiamo un film della guerra, il riferimento dell'ascolto della gente è in quel radiolone. Cioè, anche durante un film, anche guardando la TV, ti fanno guardare la radio, che è la scatola. Oggi non è più la scatola. E cos'è? Oggi, per magia, la radio l'ascoltiamo in modi diversi, dal computer, dall'iPhone. Non esiste più una raffigurazione omogenea e comune dell'oggetto radio. Questa è la cosa fantastica. Quindi, se vogliamo parlare di oggetto radio, è questo, del soprammobile, del famosissimo soprammobile, dell'oggetto vintage che faceva tanto... sì, però Antonio, non divaghi, non faccia il poeta. Volevo portarla a convenire con me che in realtà è proprio caratteristica tipica di ogni resurrezione: abbandonarsi alle spalle un corpo. La radio è risorta perché si è abbandonata alle sue spalle la limitazione di essere definita in un oggetto. Essendo indefinibile come oggetto, è definibile come pura essenza, come suono, e può emergere da un computer, da un telefono, da qualunque altra cosa. È questo attento quello che dicevo. Piero, buongiorno, grazie. Piero. Buongiorno, Piero. Sono Piero, pensionato di Torino. Allora, io ho quattro radio, nel senso che abito in una casa indipendente e mi tengo una radio in casa, una nel box auto, una nella cantina laboratorio e una sotto il portico vicino al giardino, così mentre zappetto mi sento pure la radio, e poi l'autoradio. Non ho la TV e mi ascolto la radio sempre, per me non è mai morto. Le faccio una domanda, Piero, ma non fa prima a tenersi una radiolina addosso con la cuffia, quindi ce l'avrà 5.000 di radio? No, mi piace. Lei al suo percorso. Io me ne vado nel box mentre pasticcio, traffico con la macchina. Cosa fa nel box? Cosa fa? Bricolage? Mi lavo la macchina, mi controllo le mie cosette, poi vado in cantina, laboratorio, che ne so, traffico con le bottiglie del vino, sotto il portico, dicevo, lì vicino c'ho un po' di orto, mentre mi sistemo le mie cose, c'ho la radiolina lì, mi sento la musichetta, insomma, mi piace così. Lei le piace che in ognuno dei luoghi in cui svolge le sue attività da Omarell quotidiane trova una radio che l'aspetta, l'accende come fosse un totem? Sono delle vecchie radio degli anni 70, 80. Ma le descrive queste quattro radio come sono fatte? Così capisco meglio. Sono delle cassettine, dei parallelepipedi. Sono quelle radiacce con la pila attaccata, no? Sì, con la pila, ma in cantina c'ho anche la corrente elettrica, per cui una sola c'ha la pila, le altre sono alimentate normalmente. Ma lei mai attaccato alla radiolina quelle pile la 4V, quelle quadrate a 4V attaccate con lo scotch? No. Perché no, si usava molto, diciamo negli anni 70, per alimentarla meglio. Si attaccava la pila con lo scotch dietro alla radio. Sì, sembravano dei cubetti, dei cubi. Però era necessario, durava di più quella, costava anche meno. C'era un risparmio tutto sommato in questo. Va bene, la ringrazio. Questa è la mia esperienza. Allora, abbiamo Cesare, buongiorno. Cesare. Buongiorno Nicoletti. Lei è un raffinato, già ho capito che lei è un raffinato. Sto ascoltando la sua trasmissione e ricordo gli anni 50 dove abitavo, sono del 43, perciò ho 73 anni, abitavo in una corte comune dove tutti avevamo l'uscio uno vicino all'altro e c'erano quelle radio con la radio all'occhio Bacchini che si sintonizzava e quando l'occhio Bacchini verde si congiungeva la ricezione era perfetta, aveva il filo massa terra che doveva toccare per terra per migliorare l'ascolto. Ma l'attaccavano, le nonne l'attaccavano a un termosifone, mi ricordo, di ghisa. Ecco, il mio cadeva per terra, il mio padre guai doveva toccare per terra. Ma le valvole di ricambio ce l'aveva quando si bruciavano? Sì, le valvole, qui a Pavia c'era la radio Marelli che costruiva le valvole per le radio, è una ditta che ora non esiste più. E che comunque devo dirlo per chi ascolta, la valvola era un suppostone di 10 centimetri, sì, bella, non sì. È che era una valvolina, no, era degli attrezzi di vetro. Erano installate dietro e quando bruciavano o non funzionava c'era il tecnico che diceva è la valvola. C'era una puzza di bruciato terribile esatto. E prende a fuoco la valvola e si cambiava. Nel nostro cortile i vicini venivano ad ascoltare guai, mio padre non perdeva un giornale radio, il Gazzettino Padano, essendo qui della provincia di Pavia, e allora si parlava del delitto Fenaroli, c'erano quelle trasmissioni che alla sera erano come, ora parlano di telenovela, allora erano delle trasmissioni in cui raccontavano una storia quasi sempre di gialli con Corrado Gaip, grande. Vede, lei sta rievocando un'epoca in cui non c'era la televisione, in realtà la sera si ascoltava la radio, finito di cenare, rigovernata la cucina, prima di andare a letto si accendeva la radio, si stava in penombra e si ascoltava la radio, o c'era un radiodramma, o c'era della musica, a un certo punto poi si andava a dormire, andava in onda la filodiffusione, quindi c'era soltanto musica, ma si ascoltava la radio. Mi ricordo che raccontavano ancora ai miei genitori che chi aveva la radio, le persone andavano a casa sua a ascoltare la radio quando ancora non c'era la televisione. La radio era il centro della vita familiare e lo è stato per tanto tempo. Io che sono del 54, ancora per una decina d'anni abbiamo ascoltato la radio. La mia era una di quelle famiglie in cui dicevano che la televisione rimbecillisce e quindi non si comprava la televisione. La vedevo di nascosto a casa dei figli del contadino della terra che gestivamo noi, capito? e mi ricordo che andavo a casa di questo bambino e sentiva, guardavano Mago Zurlì, queste cose. Io, il mio ricordo di straforo, che a me non volevano che guardassi la televisione. E per paradosso, poi per 15 anni della mia vita ho fatto il critico televisivo. 800 24 00 24, chiamateci, raccontateci dove state ascoltando la radio. Questo è solo il preludio di una delle notti più belle della vostra vita, sarà quella che passerete con me a Milano il 9 aprile alle 19:30. Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro, partiamo dal principio, dalla mia asserzione, dalla profezia, dall'annuncio, la dichiarazione che la radio sia morta. Dal momento che la radio è morta siamo liberissimi, leggerissimi, la possiamo ascoltare dove vogliamo. Come fossimo noi dei medium, evochiamo la voce della radio, che ci appare ovunque, e me lo sta dimostrando il nutrito numero di ascoltatori, mi sembra già quasi un centinaio da quando abbiamo cominciato la trasmissione radiofonica, che mi sta mandando le foto di come ascoltano la radio. E non ce ne sono due uguali, ognuno l'ascolta in un modo diverso. Sto cercando di decifrare adesso un signore che ascolta la radio in un modo stranissimo, una specie di pinzetta sopra gli occhiali. Ha una cuffia enorme, verde, forse quella che danno in omaggio, hanno dato in omaggio in qualche convention della nostra radio, e c'ha una radiolona che forse è un telefono, una radio, applicata al suo sterno come se fosse, non so, un pacemaker, e con quello ci ascolta. Poi Eric come ci sta ascoltando? Eric ci ascolta anche lui con una cuffietta, di straforo dal suo ufficio, senza farsi accorgere, fa la faccia presa nel lavoro. Raffaella c'ha una bella radio vicino al mouse, c'è una lampadina vicino, sta lavorando anche lui, molti stanno lavorando a quest'ora, lavorano naturalmente, le persone lavorano a quest'ora. Ha questo un impianto radiofonico bellissimo, uno stereo leggermente vintage, diciamo anni 90, però ancora valido, ancora funzionante. Oscar, vediamo come ci ascolta Oscar. Oscar ci ascolta, ma non so, un attrezzo che non saprei definire. Ah, ecco, lui ci ascolta dal computer, ma dal computer, per ridare una sorta di ricordo, come se fosse l'immaginetta sulla tomba di uno scomparso, ha messo come appunto sfondo del desktop una radio degli anni 60, la radio che aveva evocato prima il nostro ascoltatore, all'Occhio Bachini, una cosa del genere. Ecco, bellissimo, questa era la radio che avevo quando ero piccolo, esattamente la radio che oggi è lo sfondo del desktop del computer del nostro ascoltatore, che ascolta la radio sia al computer ma però con una sorta di ricordo dell'antica e vecchia radio. Linda Mazzi come ci ascolta? Linda Mazzi, beh, carina Linda Mazzi, si fa un selfie davanti a uno specchio per far sì che possiamo vederla nelle sue splendide fattezze, ha una postazione di lavoro abbastanza complessa, vedo forse una progettista, un'architetta, però ha il suo iPad dove ci ascolta esattamente dal sito di Radio 24, c'è una molteplicità di ascolto diverso. Vediamo Stella, come ci ascolterà Stella in diretta? Stella, che fortuna, c'ha gli scogli alle spalle, arriva al mare, tranquilla, se ne sta lì, si prende il sole, ci ascolta in cuffia e ci guarda come per dirci alla faccia vostra, io me ne sto in spiaggia. Beh, è giusto che qualcuno goda ogni tanto. Salvatore, vediamo Salvatore da Roma come ci ascolta. Salvatore dal suo computer, sta lavorando, anche lui ha messo come sfondo per arruffianarsi, ma c'è anche la nostra radiolina, capito, sottofondo per arruffianarsi, la sfondo di Radio 24. Allora, abbiamo qualche ascoltatore in ascolto? Sì, abbiamo Maria. Sono qua. Sì, dove stai? In una chiesa? Dov'è? Sento un eco fortissima. Allora, io sono a Catania. E che sta facendo allora a Catania? Volevo dirle che io ho tre radio in ma casa. Ma è al mercato? Dov'è? Com'è? Abbassi la radio, ne ha tre, ma tutte e tre accese in questo momento. No, ce n'è una accesa. E cos'è questa eco? Cosa c'è? Una chiesa? Dove sta lei in questo momento? Forse è messa ad alto volume. No, ma io sento qualcuno dietro, c'è un prete, cosa c'è? No, non c'è prete, sono a casa. Volevo dirle che io ho tre radio, sì. Proprio oggetti, una è grigia, una è nera, una è blu. Tutte allegre, una rossa, gialla, verde, no? No, vabbè. Una nera, una blu e una grigia. In quale mi sta ascoltando lei? Come? In quale radio mi sta ascoltando? La sto ascoltando al telefono. Ah, benissimo. E non ho neanche una televisione. e ne va fiera. E non la desidero, perché la televisione in molti programmi è diseducativa. Ma lei ormai quanti anni ha, signora? 50. E che vuole educarsi? Ma è educata già, sei già educata. Certo, sono la professoressa. E allora più di così non può essere educata, può anche essere diseducata in qualche maniera. No. E le dico veramente, non per scherzo, la radio ha reso familiare la violenza, ha insegnato ai ladri come si fa a rubare, un sacco di cose. E anche delle cose brutte, un po' di sesso, perché si vedono delle cose in televisione che è meglio che non si vedano, forse. È vero? Certo, sì. È così. Ah, ecco, invece è la radio è qualcosa di cristallino, di pulito. Grazie professoressa di Catania, sono molto contento. Mirko. Buongiorno Gianluca. Mi chiamo Mirko Gianformaggio, sono anch'io di Catania, ma vivo in Toscana da molti anni. E io con la radio, allora, intanto non ascolto la radio in forme strane, perché l'ascolto sia tradizionalmente in automobile quando guido, molto dal cellulare e anche dal computer. E poi anche da un radiolone vecchio che ho in montagna, quando vado in montagna. E qual è la differenza, secondo te, visto che sei del mestiere, dal tipo di ascolto? C'è una differenza proprio fisiologica nel sentire la radio quando la senti in diretta da un apparecchio radiofonico o la senti in cuffia magari come podcast? È molto diverso, è vero, perché quando lo ascolto nel vecchio radiolone, a parte che il suono è proprio diverso e mi sembra di averle lì le persone, mentre invece quando le ascolto dal cellulare la cosa mi sembra veramente molto più fredda. Tra l'altro, appunto, io ho visto morire una radio l'anno scorso, la gloriosa Radio Insieme di Prato, con la quale ho collaborato per un paio d'anni, e la radio non è stata in grado di convertirsi in web radio. E invece? E quindi probabilmente è come? È proprio morta, quindi non ha avuto... Sì, è proprio morta, è proprio chiusa. Tra l'altro una radio gloriosa, perché aveva aperto nei primi anni 80. E quindi niente. Io tra l'altro la radio l'ho fatta a blocchi di 10 anni, nel senso ho iniziato nei primi anni 80, poi l'ho fatta negli anni 90, nei 2000. Adesso sono appunto in procinto di trasferirmi in una web radio, e la cosa mi dà veramente una sensazione piuttosto strana, perché... Boh, non lo so, vedrò, ma mi sento strano, perché aver visto morire una radio tradizionale mi ha dato una strana... Vabbè, vita. Succede, è sempre una brutta esperienza vedere morire qualcuno, però si consoli. Mi scrive, mi manda la foto un odontotecnica, mentre sta al microscopio con delle dentiere davanti, ci sta ascoltando, sommersa da dentiere. Trovo che sia un'immagine favolosa. Vi posso dire qualche altra immagine che mi sta arrivando. Edda, vediamo Edda da dove ci vede. Edda ci sta ascoltando stravaccata dentro la macchina, con l'aria stanca, un po' scoglionata, forse sta aspettando i figli all'uscita da scuola, secondo me, in questo momento. Emilia Dolores, vediamo Emilia Dolores da dove ci ascolta. Emilia Dolores ci ascolta c'ha tutti i loghi della radio dietro. Furbetta, ha acceso il televisore sul canale Sky, dove si ascoltano tutte le radio, e ci fa vedere che lei ascolta la televisione. Questa è un'altra occasione di riscossa della radio. Io mi devo fermare, manca solo un minuto. Vi ripeto, scrivete a melog@radio24.it, semplice, mandate la foto di voi che state ascoltando la radio. Questa foto apparirà in un mega schermo in uno dei posti più belli di Milano il 9 aprile dalle 19:30, dove ci sarò anche io, che è l'Unicredit Pavilion a Piazza Gaulenti a Milano. Venite, l'ingresso è libero. Fra di voi 10 avranno una radio bellissima che io firmerò con il sangue e dedicherò alle persone che più mi staranno simpatiche, così a naso, anche se non porteranno nulla, però se portate la foto è molto meglio. Avrete altre notizie di me presto.